Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. C'è una strana calma nella fila di uomini e donne che attendono di entrare all'emporio solidale. Un procedere lento, una malinconia che senti nella voce delle persone e nei loro sguardi. Spesso al loro fianco ci sono i bambini. Siamo in cassa integrazione che non ci hanno ancora pagato. Dal lockdown, da quando è iniziato, sì. Non vi hanno ancora pagato? No. Sì, ci hanno pagato il febbraio un acconto. Ma adesso, fino adesso, niente. Come avete fatto da febbraio? Vabbè, io sono... cioè, anche amici così che mi davano una mano. Però voi normalmente avevate lavori, sì, eravate normali. Sì. Cosa si aspetta adesso? Spera che finisca in fretta? Io spero sì, veramente, perché speriamo che finisca. A meno che ci arrivi la cassa integrazione, perché qua... Vi è arrivata la cassa integrazione? Perché non è... dicono che non è ancora arrivata. Lei e suo marito da febbraio? Ma io sono sola, sono una mamma single. Lei da febbraio? Allora, a febbraio abbiamo ricevuto l'acconto, come le dicevo, fino adesso basta, cioè, non abbiamo avuto più niente. Ma quanto dovrebbe ricevere in un mese? Le 300 e qualcosa. Cosa faceva? Integrava con altri lavoretti? Sì, poi abbiamo fatto la casa popolare, ci hanno richiamato per avere la casa, ci hanno chiamato per dare dei documenti e penso che a breve ci daranno la casa. Loro non apre subito, così, piano piano. E dov'è che lavorava? Lavora? Lavoro fuori Milano, presa di pulizia. Ma non ha un contratto? Contratto a tempo determinato. Quindi lei da quando c'è stato il blocco senza soldi a casa, fermo così? Allora me l'ha dato però segno familiare. Non ho, me l'ha dato tutti così, però me l'ha dato il segno familiare. Deve pagare 1.350 uno tre mesi a affitto. Ma da quanti anni è a Milano? 20 anni a Milano. Avete scoperto questo emporio? Me l'ha dato l'assistenza sociale. Siete in difficoltà, avete bisogno? Sì, non lavoriamo nessuno dei due. Mia moglie è anche invalida, lavoravo e l'impresa ha chiuso e non prendo niente, arrangiavo, prende 250 euro di pensione lei, invalidità, noi come siamo combinati malamente, speriamo che finisca il virus, ma se non aiutano adesso. Se lei la vede peggio dopo? La vedo peggio. Li chiamano nuovi poveri, ma forse è la più grave ipocrisia di tutta questa storia, perché parliamo di persone che in 2 mesi hanno finito tutti i soldi a disposizione e hanno raschiato il fondo, costretti a chiedere aiuto per mangiare. Ma se in 2 mesi di lockdown una famiglia media arriva a dover scegliere se pagare la spesa o l'affitto, forse il problema c'era già da prima. Da quando, cioè, queste persone sono state costrette a lavorare in nero, con contratti precari, a tempo, senza tutele e senza un salario dignitoso. Quasi tutti, per poter vivere, svolgono più lavori. Ci si sveglia all'alba, si torna a casa la sera tardi. È la storia di molti. Finito il lockdown, quasi tutti sono tornati a questo standard. Poco dunque è cambiato. Il nero resta il modo migliore per portare a casa un po' di soldi. Senza speranza di crescita, di pensione, di sostegno alla comunità. Progetti come quello dell'Emporio della Solidarietà della Caritas in cui ci troviamo è determinante per non sprofondare ancora più giù. Qui siamo a Lambrate, periferia di Milano, ma di posti come questo è piena l'Italia, è un luogo che funziona come un supermercato. Questa praticamente è la cassa di questo emporio, funziona come la cassa del supermercato? Esatto, uguale. Però alla fine cosa fai? Non dici quanto è il conto, ma... Il punteggio che gli è rimasto da poter spendere entro la scadenza dei punti. Sono persone che hanno una tessera che dimostra che hanno difficoltà? Esatto, e che funziona da punteggio per l'acquisto della spesa. Stai vedendo tante persone in questi giorni? Sì, sicuramente, ce ne sono un po'. La forza dei progetti come quello dell'Emporio della Solidarietà sta nella speranza, nella volontà, cioè, di costruire un percorso, come ci spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Abbiamo avuto subito all'inizio della pandemia, quindi dopo un paio di settimane, già il raddoppio delle persone che si sono rivolte alle parrocchie e quindi indirettamente a tutti i centri di distribuzione che sono diffusi in maniera capillare. Solo nella città di Milano 126 centri d'ascolto distribuiscono pacchi viveri. Poi ci sono gli 8 empori che sono dei market appunto che distribuiscono in maniera un po' più dignitosa, diciamo così, i generi alimentari, anche lì abbiamo avuto, oggi possiamo dire abbiamo raddoppiato la distribuzione di generi alimentari, quindi la raccolta e la distribuzione, raddoppiato i numeri, e questo vuol dire che ogni giorno noi abbiamo il doppio delle persone che si rivolgono a noi. Quindi, non so, per dare un numero, aiutiamo 5.000 famiglie solo con gli empori. A questo vanno aggiunti tutte le persone che in maniera capillare i centri d'ascolto raggiungono con una consegna a domicilio oppure con una consegna ancora in parrocchia laddove è possibile su appuntamento, evitando contingentamenti. Qui vedo molti stranieri soprattutto, cioè questo significa che gli italiani in qualche modo ancora non sono entrati in questa situazione di grave indigenza? Dal nostro osservatorio invece abbiamo visto che questo aumento è stato caratterizzato proprio dagli italiani, perché, e ovviamente anche da famiglie straniere, però la caratteristica di queste persone nuove è che prima appunto non avevano bisogno di noi, avevano un reddito che però era precario, non era tutelato, non era solido, cioè non avevano dei contratti che ha consentito di superare questo blocco, e quindi si sono trovati improvvisamente senza un reddito, senza la capacità di fare la spesa, con un aumento delle spese. Pensiamo alle famiglie numerose che hanno visto i bambini stanziali a casa, bambini che prima invece consumavano il pasto completo nelle mense scolastiche, e questo ovviamente ha provocato una sofferenza economica di queste famiglie. Il vero problema è che appunto le entrate non erano garantite, non erano basate su dei contratti solidi, con delle tutele, con anche degli aiuti, e quindi questo ha fatto emergere tutto un sommerso, non solo il lavoro nero, c'era molto anche di questo, ma anche appunto di questi lavoretti che si basavano appunto su dei contatti personali. Pensiamo alle badanti, pensiamo che a quelli che andavano a fare le pulizie nelle case, o quelli che facevano le pulizie nei servizi, nella ristorazione, nel turismo, in tutto questo mondo che a Milano è molto forte, dava opportunità a molte persone, ma che ha manifestato subito i limiti, perché Non si può tollerare che ci siano dei lavoratori o dei cittadini che si trovano senza reddito, senza una vita dignitosa, solo per un blocco di 2 settimane, di un mese. Adesso è vero, abbiamo superato i 2 mesi, e quindi la questione è veramente delicata, tant'è vero che noi ci stiamo ponendo il problema di come tenere a galla queste persone, non solo col pacco vivere ma anche con dei contributi a fondo perduto che possano consentire loro di pagare gli affitti, di pagare le bollette, perché sarebbe molto più grave che magari queste persone perdessero la casa, gli venisse tagliata la bolletta, l'utenza dell'elettricità piuttosto che del gas. Dopo sarebbe molto più drammatico e anche molto più costoso aiutare queste persone. Quindi tentiamo anche questo ceto medio, o comunque questa zona grigia che era a cavallo della linea della povertà, di non farle precipitare nella povertà, perché sarebbe drammatico per tutti. Le faccio una domanda quasi filosofica, nel senso che questa crisi ha messo in luce anche proprio una fragilità del sistema capitalistico, quello che diceva lei, no? Non può funzionare un sistema che esclude una fascia di migliaia di persone nel momento in cui c'è una crisi da una tutela, cioè da un mondo del lavoro che di fatto non sta tutelando. Secondo lei ci saranno in qualche modo dei cambiamenti, ci saranno delle ricadute, o da quello che state vedendo è tornato tutto come prima, quindi chi lavorava in nero ha ricominciato a lavorare in nero? Dobbiamo imparare la lezione. Il virus è un nemico nascosto che però ha smascherato, diciamo così, tutta una serie di contraddizioni. Lo ha fatto nel campo della sanità, della salute. Abbiamo visto che ha tenuto per alcuni aspetti, per altri non ha tutelato, perché di fatto non è riuscito a curare tutti. Ha smascherato un po' un sistema anche scolastico, che ha fatto emergere grandi differenze che ci sono. Coloro che avevano le bande larghe piuttosto che avevano i device eccetera sono riusciti a seguire le lezioni. Molti dei ragazzi che anche noi seguivamo prima e dopo scuola queste dotazioni non l'avevano, e per un mese e mezzo sono stati invisibili. alla scuola, e quindi questo ci interroga come far accedere alle opportunità tutti per evitare la trasmissione generazionale delle povertà, eccetera. Sono degli aspetti di lungo periodo e strutturali. Lo stesso nel mondo del lavoro. Il mondo del lavoro ha fatto vedere che certo c'è grande ricchezza, c'è grande commercio, c'è grande mobilità di merci, di persone, il turismo, eccetera. Però tutto questo ha le gambe fragili se si basa su intere categorie di lavoratori che possono spizzicare le opportunità inserendosi in qualche attività, però appunto non strutturate, non riconosciute, non tutelate. Se vogliamo imparare la lezione, dobbiamo renderci conto che tutto questo sistema deve garantire ai cittadini una dignità che va al di là della capacità personale. Certo, una grossa responsabilità che tutti ci assumiamo, anche coloro che sono in povertà devono attivarsi, però bisogna creare le condizioni perché quando e se capita ancora una situazione del genere, tutto questo non ricada sulle fasce più deboli, perché il rischio che usciremo con persone nuove che si affacciano alla Caritas e quindi che si trovano in situazioni di povertà, in una situazione che può durare anche degli anni. La crisi, questa crisi è drammatica e rischia di colpire duro dal punto di vista sociale per degli anni, e qui ci vuole che tutti coloro che possono esercitare una responsabilità dal punto di vista economico, istituzionale, mettano in campo tutto quello che è possibile per ridurre queste differenze di opportunità e queste differenze di ricchezza che poi fatalmente si riproducono come fragilità su tutta la collettività e su tutto il sistema anche economico. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. I detersivi non glieli posso dare perché ha raggiunto il limite per questo mese. Okay. C'è una mamma che ha passato nel gruppo che si può chiedere l'aiuto. È bello venire qui a fare la spesa e non ricevere il pacco. Sì, sì, possiamo scegliere quello che serve a casa. Difficoltà perché niente lavoro, tutto a casa. Non so se ci arriveranno una cucina per pasta, tonno, per i bimbi. Oggi non so se riusciamo ad arrivare a controllare tutto. Come pesto, che le piace molto nella mia figlia, sempre pasta al pesto. Quindi non cucina cose filippine? Sì, cuciniamo. Però anche pasta. Sì, per la pasta è sempre pesto. Pesto col formaggio, sempre. Siamo in uno degli empori della Caritas. A Milano ce ne sono 8. Sono supermercati pensati per stare vicino alle famiglie in difficoltà. Luoghi che durante questo periodo di grave difficoltà hanno distribuito 5 quintali e mezzo al giorno di generi alimentari. Rispetto al periodo precedente alla crisi, gli aiuti sono in costante aumento e hanno visto raddoppiare il numero delle persone che si sono rivolte a queste strutture per ricevere cibo, tanto che è stata creata una tessera d'emergenza, nata a marzo, nel pieno della crisi. Sono Andrea Fanzago, responsabile dell'area povertà alimentare di Caritas Ambrosiana. La mia responsabilità è di coordinamento di tutti gli empori della diocesi. Sono promossi da Caritas e sostenuti da Caritas attraverso una serie di finanziatori, partner di progetto, eccetera, eccetera. Il compito è proprio questo, appunto, di coordinare in tema di merci, di collegamento con la rete dei centri di ascolto, perché le persone che vengono sono state prima ascoltate e ricevute in un centro di ascolto parrocchiale della Caritas Ambrosiana, e di monitoraggio dell'andamento delle tessere e quindi di verifica delle varie progettualità che ogni centro d'ascolto ha fatto sulla singola famiglia rispetto alla promozione umana, cioè all'uscita dalla povertà. Ecco, perché questo è un progetto che si pone questo come obiettivo, no? Quello di dare dignità innanzitutto a questo momento di difficoltà, per cui non hai il pacco alimentare ma vieni tu a fare la spesa, già questo come simbolo. Sì, l'Emporio è nato molto prima del Covid, Proprio con questa filosofia, cioè superare la distribuzione del pacco alimentare, ma responsabilizzare la famiglia che viene, fa la spesa, sceglie quello di cui ha bisogno, deve amministrare questo punteggio e deve prendere le cose di cui ha realmente bisogno. Quindi è anche uno strumento educativo. Legato a questo c'è il tema della promozione, quindi dell'uscita dalla povertà. Ecco Andrea, una domanda che voglio farti è... Dopo la quarantena, cioè le persone che stanno arrivando sono di più o di meno rispetto a prima? Cioè il dato che avete voi com'è? Sono molte, molto, molto di più. Abbiamo raddoppiato i numeri delle tessere da marzo che abbiamo questi segnali e quindi abbiamo dato ai centri di ascolto la facoltà di attivare tessere di emergenza, le abbiamo chiamate, della durata di 2 mesi, rinnovabili chiaramente. Infatti quelle che abbiamo attivato a marzo le abbiamo rinnovate tutte, perché erano proprio nel pieno della crisi. Solitamente la tessera dell'Emporio dura 6 mesi più 6 mesi rinnovabili, quindi dura 1 anno per permettere proprio alla famiglia di fare questo percorso di uscita e anche al centro d'ascolto di attivare tutte le risorse per poter raggiungere questo obiettivo. Sulla emergenza economica, che è derivante dall'emergenza sanitaria, abbiamo visto da marzo che i numeri sarebbero aumentati perché hanno cominciato a bussare alle porte delle Caritas. L'anno ha avuto il picco perché è grossa, ci sono tante situazioni di povertà, quindi abbiamo avuto un numero superiore, ecco, di richiesta. Nelle altre empori fuori Milano la cosa è un po' più regolata, ecco. Ci sono state delle storie anche stando qui o in altri luoghi che ti hanno colpito particolarmente in questo momento? Sì, diciamo che tutta questa ondata di persone che hanno perso questi lavoretti che avevano, domestiche, babysitter, colf, assistenza anziani, qualcuno che lavorava nelle mense scolastiche, parcheggiatori, tutti questi lavori che normalmente appunto servivano per tenere in piedi la famiglia, con l'emergenza hanno interrotto bruscamente il lavoro e quindi riduzione del reddito, magari erano famiglie monoreddito e si sono trovate proprio con la scelta di dover o pagare l'affitto, pagare le bollette o fare la spesa. Quindi questo è un aiuto, un sostegno che gli si dà in questo momento di crisi. Come dicevo, le abbiamo rinnovate tutte, quindi quelle di marzo cadevano ai primi di maggio. Adesso le abbiamo rinnovate per altri 2 mesi, perché sicuramente anche a settembre saremo costretti a rinnovare quelle che abbiamo attivato a marzo, che erano di 2 mesi in 2 mesi. Il cibo che è stato scaricato poco fa, sì. Qua, da dove arriva? Chi è che contribuisce? Allora, alcune sono donazioni, alcune sono acquisti che facciamo attraverso degli accordi commerciali con la rete della grande distribuzione e quindi cerchiamo proprio di raccogliere il più possibile, ecco. Diciamo che in questo periodo di crisi, con l'aumento della domanda di aiuti alimentari, c'è stato anche l'aumento della donazione, quindi tante aziende ci hanno chiamato offrendoci i loro prodotti e questo è un bene, nel senso che ci aiutano anche a sostenere la possibilità poi della scelta sullo scaffale, ecco, di avere tanta varietà di prodotti. L'esperienza dell'Emporio Solidale è un'esperienza sul nazionale o è un'esperienza solo su Milano? Il primo Emporio della Caritas venne aperto a Roma 10 anni fa, quindi è un'esperienza nazionale, ormai sono più di 130-140 Empori in tutta Italia, Empori della Solidarietà Caritas, che hanno un logo e hanno lo stesso gestionale, quindi tutti gli Empori teoricamente potrebbero essere messi in rete perché hanno lo stesso gestionale, quindi sia per quanto riguarda la merce sia per quanto riguarda il tesseramento. Poi Caritas Ambrosiana ha un suo gestionale che si chiama Oscar Web, dove raccogliamo appunto tutti i dati delle persone che vengono ai centri di ascolto e quindi abbiamo una mappatura della povertà. La disuguaglianza di reddito che si era dunque registrata negli ultimi anni in Italia è stata messa bene in luce dall'emergenza Covid. La buona notizia è che molti giovani hanno scelto di svolgere volontariato e forse prendere coscienza di quanto sta avvenendo. La speranza è insomma riposta nelle nuove generazioni. Intanto nell'Emporio si va avanti con la spesa. In uno scaffale in basso si vedono tanti peluche e libri per bambini. Massimiliano Gabba, sono il coordinatore educativo per la cooperativa Farsi Prossimo degli Empori della Solidarietà. Io ho visto che qua anche in questo Emporio ci sono dei giocattoli giocattoli, dei peluche, dei libri, dei giochi per bambini, quindi arrivano tante famiglie qui, questi oggetti vanno via? Allora, arrivano tante famiglie qui, assolutamente sì, e c'è stato un forte incremento del numero causa l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e sono oggetti che comunque alle famiglie fa piacere trovare e poter regalare ai propri ragazzi, magari per qualche, o per fargli qualche bella sorpresa, o in qualche occasione particolare, che può essere il Natale, che può essere la Pasqua, il compleanno, eccetera. Per cui sono sicuramente articoli che hanno piacere a trovare, sì. Perché a volte uno non pensa, no? Cioè, questo sembra il superfluo, invece anche se sei in difficoltà, circondarsi di una cosa bella può essere di conforto tanto quanto il cibo. Assolutamente sì, il bello fa conforto, genera conforto, genera piacere, quel momento di normalità, di divertimento, di possibilità di gioco, che è assolutamente essenziale. Ci sono delle storie che ti hanno colpito più di altre lavorando qui in questi empori? Beh, di storie ce ne sono veramente tante, siamo veramente a contatto con differenti situazioni e con la dignità delle persone che vengono qui, perché sono in una situazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà dovuta alla momentanea perdita del lavoro, alla cassa integrazione e quant'altro, ma persone che hanno voglia di ripartire, di ricominciare, di riprendere con le proprie gambe a vivere la loro quotidianità, la loro normalità. È questo quello che soprattutto in questo periodo colpisce. Il fatto che siano combattivi, che non arrivino, sì, qua. Esattamente, che siano persone che hanno proprio voglia di ripartire, di persone che hanno voglia di fare. La cosa bella che ho potuto vivere in questo particolare periodo è stata proprio anche le persone che hanno dato la loro disponibilità per venire a fare i volontari. Quindi sono persone che in questo momento sono a casa e che, avendo del tempo libero a disposizione, che normalmente magari durante l'anno non hanno, si sono messe al servizio degli altri. Abbiamo avuto l'opportunità proprio di confrontarci anche con persone, con ragazzi che magari normalmente non abbiamo possibilità di confrontarci. Sono venuti un sacco di ragazzi, studenti, freschi lavoratori, persone magari di mezza età ma che non sono già in pensione, che durante l'anno non hanno molte opportunità di tempo da poter dedicare a fare determinati tipi di attività di volontariato, soprattutto durante la settimana. Per cui il potersi confrontare anche con realtà differenti e con punti di vista sempre differenti, questo è molto, molto bello, devo dire. Ti confronti con ciò che è altro, ma con degli occhi giovani, con degli occhi nuovi, con degli occhi differenti. Diario termina qui. Come sempre potete scrivermi a diario@radio24.it. Un caro saluto a tutti da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.